leggero era il cammino sul selciato che di là ti portava oltre mare alla frontiera. E le stelle del mattino a poco andavano via con i piedi nella terra calda e nera. I mercanti del tramonto sulle dune torneranno a raccontare la leggenda della dea. E forse mille anni fa di qui passò un uomo libero. Lui tutto è un po' si sa, il vero è scritto sulle tavole. Preso la sua ombra, il vento.